Come ci sta, Tione? A Tione si vive molto bene, è un paese che offre tanti servizi a misura, è inserito in un contesto panoramico molto bello, le Dolomiti, manca forse un po' di cultura e di vita sociale, un po' di più per i giovani. Come gli adulti vedono i giovani? I giovani come li vedo qui? Allora, essendo una meno giovane di voi, però essendo cresciuta a Tione, sono cresciuta bene, sono stata bene. L'unica cosa è che forse oggigiorno manca un po' di stimoli culturali e cose create per i giovani. Quindi luoghi di aggregazione e punti di, insomma, anche di divertimento e di scambio culturale, socioculturale. Come i giovani vedono gli adulti? Secondo lei? Allora, è sempre un discorso secondo me di generazioni. I giovani stanno tra i giovani e magari pensano meno a cosa, a come vivono e a quello che pensano gli adulti. Il giovane ha il suo mondo ed è il bello di quando si è giovani, che si vive nel quel mondo insomma un po' astratto che è l'adolescenza e che è tutto quello che poi ne segue. I giovani pensano a stare fra i giovani e a divertirsi e fanno bene, insomma, questo è quello che penso.